Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brustolando Maridia ai microfoni anche questo martedì sera, un martedì piovoso, però la puntata di brustolando non sarà meno interessante delle altre volte. D'altronde, finora non abbiamo avuto giorni invernali, quindi ci aspettavamo anche un po' di pioggia e perché no? Magari i giorni uggiosi ci fanno bene perché ci ricordano poi quanto è bello vivere durante le giornate più soleggiate. È una puntata ricchissima, continua questa bellissima esperienza di avere ospiti in studio e la puntata questa sera sarà per 20 minuti circa in francese e poi proseguiremo con un'intervista in italiano. Intanto saluto Daniemme in regia. Buona serata a tutti. E i nostri George e Fiordaliso che sono in arrivo, quindi saranno con noi proprio pochissimo. Volevo ricordarvi in apertura di trasmissione, così poi avrò fatto i compiti, come si suol dire, due eventi della nostra ricchissima agenda culturale. Uno è Una rosa nella notte, organizzato dalla Bottega Magica, che è una pièce teatrale, quindi la Bottega Magica che ritorna annualmente con una pièce teatrale. Questa volta è Una rosa nella notte, che avrà luogo i prossimi 16, 17 e 18 maggio. Il 16 e il 17 alle ore 20, mentre il 18, ovviamente essendo domenica, alle 17. Per quanti volessero saperne di più, potete contattare sia il Bosar, bosar.be, sia telefonare, quindi allo 02 507 8200 oppure uno degli organizzatori 0476 265921. Quindi Una rosa nella notte organizzato dalla Bottega Magica Bosar, quindi insomma un luogo prestigiosissimo, cosa che ci fa sempre piacere in quanto da italiani continuiamo ad esprimerci così come brussellando in lingua italiana in questa nostra strepitosa capitale europea che ci permette anche di poter esercitare l'italiano. Vi ricordo anche che questo weekend si festeggia anche la città di Bruxelles, già che il 10 e l'11 maggio festeggiamo quella che è la festa dell'Iris. E quindi ci sono tante attività e concerti che avranno luogo proprio in città. Invece voglio ricordarvi un evento che riguarda la comunità, diciamo, degli expat, ma non solo, riguarda un po' tutti noi che apparteniamo all'Europa, che il prossimo 17 maggio le istituzioni europee aprono le proprie porte dalle 9 del mattino e fino alle 18, quindi per quanti non avessero ancora visitato il Parlamento europeo, il Consiglio o alcune direzioni generali come il Berlaymont, che è sede dei commissari europei, avranno l'occasione di poterlo fare proprio sabato 17. Daniele. Sì, ricordiamo anche che sabato 10 di maggio ci sarà la Zinnecke Parade, che ha luogo ogni 2 anni, è una sorta di manifestazione per le strade di Bruxelles, è una tradizione di lunga data che è stata ripresa negli ultimi anni e ha luogo ogni 2 anni, quindi da non perdere in centro a Bruxelles sabato 10 di maggio. Infine, prima di passare la parola al primo ospite della serata, voglio ricordarvi una mostra che è organizzata da un gruppo di artisti greci che prende il titolo No Country for Young Men. Infatti, 30 artisti contemporanei lavorano intorno all'idea, o meglio, all'impatto che la crisi economica ha avuto sul loro paese. Come sapete, la Grecia è stata veramente una delle vittime eccellenti di quello che è accaduto negli ultimi anni, e questa mostra vi dà proprio l'idea di quello che è accaduto nel paese, perché crisi non vuol dire soltanto quelle che sono le possibilità perse, ma significa anche quelle che sono le opportunità per veramente reinventare un paese. Questo mi sembra proprio essere uno straordinario messaggio di speranza, soprattutto da qui, da Bruxelles, che è sede anche delle istituzioni europee. Vi ricordo inoltre che, come accade molto spesso, sarà possibile visitare la mostra anche di giovedì pomeriggio, in particolare il 29 maggio e il 26 giugno, tra le 18 e le 21. Potrete addirittura approfittare anche di una guida trilingue in francese, olandese e inglese. Quindi veramente vi invitiamo a visitare questa mostra perché ne vale veramente la pena. Ancora e nuovamente il Beaux-Arts, e ringraziamo anche tutta l'equipe del Beaux-Arts perché svolge veramente un lavoro straordinario. Ebbene, io cambio fra poco lingua, ma prima di passare al francese sono molto contenta perché continua quella che è una delle cooperazioni più belle che Bruxellando ha lanciato negli ultimi anni, che è presentare alcuni degli autori della casa editrice Meo. E colgo l'occasione per salutare Gérard Adam, che ci fa veramente da talent scout e mi permette soprattutto di scoprire degli autori che probabilmente non avrei mai scoperto. E questa sera è uno di quei casi, perché sono veramente felice di avere qui con me Evelyne Vilvert, la quale ha scritto una raccolta di racconti veramente straordinaria, pensate, ispirata al canale di Bruxelles. Ci sono 24 storie, 24 episodi davvero densi, che seguono quello che è anche il ritmo della vita del canale. Ma quello che mi ha stupito più di Evelyne è la produzione artistica. Pensate, Evelyne ha cominciato a scrivere nel 1974 e continua a farlo ininterrottamente, tanta è la sua passione per la scrittura. Donc je passe maintenant au français. Vous le savez, moi je n'ai pas trop parlé à la radio en français, mais je ferai comme d'habitude de mon mieux. Et donc, je souhaite le bienvenu à Evelyne à Bruxellando. Merci, merci à vous. Ça me touche beaucoup que vous fassiez l'effort de parler en français. Cela dit, votre langue italienne, elle est absolument merveilleuse. Et ce soir, on parle du dernier ouvrage d'Evelyne, qui est en fait un recueil de contes, miteux et magnifiques, mythici et magnifici. Mais avant de parler de ce recueil, Evelyne, je voudrais que tu puisses te présenter à nos auditeurs et nous raconter surtout comment est née ta passion pour l'écriture. Ah, ça c'est une belle question. Mais je pense que ça s'est déclenché tout de suite. Je dirais pas quand j'étais dans le ventre de ma petite maman, mais presque. Et en fait, moi j'ai eu une enfance absolument magnifique, magnifique. Pas miteuse, mais magnifique. C'était à Spa. Aspa, qui est une belle ville des Ardennes, et j'ai eu la chance de passer cette enfance dans une villa 1900, qui est toujours très très belle, que j'ai été revoir il y a 10 jours. Très belle, une maison qui fait rêver, parce que c'est d'une beauté, et en plus elle était entourée d'un grand jardin, avec au fond du jardin, trapèze, balançoire, anneau. À un moment donné, j'ai quand même penser à une carrière de trapéziste, mais finalement, quand on écrit, on est un petit peu sur un trapèze. Et voilà, donc, des bonheurs et des chances extraordinaires mon enfance. Et donc, j'ai vécu dans ce cadre, donc fabuleux. Et je pense que ça a éveillé en moi une très très grande sensibilité et un amour de la nature et de tout ce qui est sensoriel, donc les parfums, les sons, etc., etc. Je pense que c'est là que ça s'est vraiment déclenché, d'une certaine manière. Je vous dirais un petit peu à mon insu, mais je pense que voilà, c'est vraiment le point de départ. Et puis un jour, j'ai retrouvé au fin fond d'une armoire, j'ai retrouvé une boîte de crayons de couleur. Bon, et une boîte qui remontait à mon enfance. Et puis, j'ai découvert entre les crayons qu'il y avait un petit papier jauni. Puis, je prends le papier jauni, là, entre les mains, et je tombe sur un petit poème que j'avais dû écrire quand j'étais petite. Mais un poème a tombé par terre, tellement il est naïf. Voilà, avec des rimes pas possibles. Mais c'était les débuts de l'écriture, et voilà. Et puis, ça, c'est... Après ça, ben, j'ai continué, parce que de toute façon, je suis bonne... qu'à écrire, je ne sais rien faire d'autre dans la vie. Roman, nouvelle, poésie, écriture pour la jeunesse, théâtre et ses contes. Tu parles de colère. Donc, si on pourrait associer ton écriture aux couleurs, lesquelles tu choisirais? Moi, je suis une amoureuse des couleurs, ça c'est vrai, tu l'as bien senti. Mais disons, mes couleurs préférées, c'est des couleurs chaudes, bien sûr. Donc, la gamme des roses... la gamme de certains rouges, certains orangés. Par ailleurs, quelques couleurs plus froides, comme le turquoise. Mais le turquoise, il a la force de la lumière. Et puis aussi, en fait, ma couleur préférée, c'est le mauve. Donc voilà, je suis pratiquement toujours en mauve. Mauve, lila. Voilà, une grande amoureuse des couleurs. Puis j'ai vécu longtemps avec un artiste, et avec un peintre. Donc on était alors là à 100% dans les couleurs. Alors, venons maintenant donc à ton dernier recueil, en fait, qui voit comme protagoniste les canaux de Bruxelles. Il y a... C'est le personnage principal. Oui, je c'est pense. C'est le canal, non, c'est bien. C'est le juste, canal, non. C'est juste bien, mon, c'est mon interprétation. C'est la de... première fois qu'une journaliste me dit ça et c'est extraordinaire. Non, non, attends. Non, mais elle j'ai bien compris. Hein. Non, mais alors, écoutez, je dois avouer que pour moi, c'était un effort de lire. Hein. Parce que vous le savez, moi, je suis quand même italienne, donc l'italien est ma première langue. J'ai appris pas mal de mots. Donc, c'était quand même un exercice de lecture extraordinaire. Mais il y a une chose qui m'a frappée, je commencerai par là, et par la suite, on va continuer. Parce qu'Evelyne, tu racontes de la poésie où personne ne l'imaginerait pas. Mm-hmm. Et donc, j'ai vu le canal comme le lieu, non lieu, qui est animé en fait par plusieurs vies parallèles. Mais d'où naît cette idée? Alors, si mon interprétation est correcte, évidemment. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce qui a déclenché ce recueil de nouvelles, qui est presque un roman nouvelle, ce qui a déclenché ça, c'est qu'un jour, je faisais une toute petite croisière sur ce canal de Bruxelles, et puis tout à coup, j'ai vu devant moi une montagne de vieux trams, des vieux trams voués à la casse. Donc qui terminaient leur vie là. C'était une sorte de sculpture gigantesque que j'ai trouvée d'une beauté extraordinaire, mais aussi d'une mélancolie extraordinaire, parce qu'évidemment, c'était des trams voués justement, qui étaient voués à mourir. Et alors je dis, tous ces trams qui avaient transporté des milliers de vies, des milliers d'êtres humains, et qui se retrouvaient là. Et donc j'ai eu une émotion incroyable et ça a été le point de départ de cet ensemble de nouvelles. Et par ailleurs, je vis là à quelques mètres du canal, donc je dis pas que je nage dans le canal tous les jours, mais ça fait partie de mon environnement. Et alors la question suivante est très simple. 24 contes, dizaines de personnages. Où finit la réalité et où commence la fiction? Ben disons que la réalité c'est le lieu. C'est le lieu, c'est le canal, il existe véritablement. Je n'ai pas inventé le canal, sûrement pas. Et je me suis inspirée des rives du canal où je me retrouve tout le temps, tous les jours. Donc, et l'atmosphère de ces rives et ces montagnes de ferraille, etc. Donc, que je trouve belle, je l'ai dit. Et puis, des personnages, tout un mélange de personnages, tout un mélange de cultures aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce quartier. Mais disons qu'à partir de ce lieu réel, mais j'ai inventé tout le reste. Sauf un personnage qui est réel, c'est la vagabonde. Ah. Que j'ai vu des centaines de fois, mais que je ne vois plus depuis 3 mois. Et là, je suis vraiment très inquiète parce que vraiment, il s'est passé quelque chose avec elle. Je la vois plus. C'est le seul personnage vraiment extrait de la réalité. C'est une femme qui me fascinait. Un petit peu psychotique. Moi, je pensais plutôt que le personnage, le réel, était la joggeuse. Non. Enfin, des joggeuses, des joggeurs, on en voit beaucoup. Tous mes personnages sont imaginés. C'est ça mon travail d'écrivain aussi. Mais à partir de la réalité, à partir de l'observation plutôt. Alors là, l'imagination, elle s'emballe. Il y a quelques semaines, Georges et moi, nous avons interviewé un régisseur italien, Gianfranco Rosi, qui a fait plus ou moins ton exercice. Il a vécu pendant une année, plus ou moins, aux alentours du raccord annulaire de Rome, il grande raccord annulare. Mm-hmm. Et il a raconté en image la vie de plusieurs personnages, comme tu as fait dans l'écriture. Et ce que j'ai retrouvé aussi dans tes contes, il y a le rythme du canal. Tu as aussi raconté la vie, les rythmes du matin jusqu'au soir et au-delà aussi. Oui. Mais ça c'est, j'y ai même pas pensé. C'est vraiment, c'est surtout un travail d'atmosphère et d'imprégnation du lieu. Depuis, j'y vis depuis 30 ans, donc c'est déjà pas mal. 30 ans, ouais. Oui, ça je comprends que donc tu connais très bien le canal aussi. Et en restant toujours dans les thèmes italiens que nous avons beaucoup quand même traités dans les semaines passées, il y a aussi un autre élément que j'ai trouvé dans pas mal de choses que j'ai vues et lues récemment, mais ici que je vois bien développé. Donc il y a la laideur qui devient beauté. Bien, bravo, très très bonne journaliste. Ah, oui. J'ai bien rouge. Hein. Les auditeurs ne le voient pas. C'est bien dit. Mais, j'apprends les jours les jours. Mais disons que c'est vrai que c'est un quartier qui peut paraître triste à pas mal de personnes. Mais moi j'y vois, oui effectivement, j'y vois une beauté, une certaine poésie aussi. La poésie, elle n'est pas toujours au milieu des belles fleurs. Hein. On la trouve parfois justement sur un... un vieux chemin là comme ça, ou entre deux pavés. C'est ça la vraie poésie pour moi. Ouais. Et alors encore un autre détail qui m'avait frappé, parce que tu montres les canaux entre ombre et lumière hein, qui donnent envie d'une nouvelle vie. Il y a toujours l'espoir, mais oui. Surtout le bonheur. Il y a, c'est un mélange de clair-obscur, on pourrait dire ça. J'utilise une expression de peintre. Mais oui, mais c'est la vie, hein, c'est la vie avec ses marées, des marées parfois sombres, des marées beaucoup plus lumineuses. Mais moi, personnellement, je suis pleine de lumière. Pleine de lumière. Et alors, je voudrais aussi encore te poser une autre question sur les romans. Et c'est, je pense que c'est un peu la plus difficile. Parmi les personnages sur lesquels tu as écrit, est-ce qu'il y a quelqu'un sur lequel tu voudrais développer plus ou peut-être raconter encore une histoire de l'histoire? Je vois pas vraiment. Je vois pas vraiment. Non, j'ai envie de dire que j'ai une tendresse profonde pour tous mes personnages. Et puis, bon, avec le recul, je me dis, mais comment? C'était incroyable cette période d'écriture parce que j'ai quand même créé, là, je ne sais pas combien de personnages, je ne les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup, hein. Et alors, j'écrivais une nouvelle à peu près tous les 3 jours, donc c'était un travail intensif. Et les personnages, ils venaient à moi, ça avait quelque chose de magique. Oui, tout ça venait à moi. Et alors, j'ai encore une autre question. Est-ce que tu crois que... Alors, parce qu'il y a des éléments ici. Il y a à la fois le pouvoir des mots pour toi, qui écris, il y a le pouvoir des mots pour nous, qui lisons. Donc, il y a ces doubles aspects entre nous, lecteurs, oui. Et vous, auteurs. Et ce que j'ai retrouvé dans ton livre, merci, c'est que dans ce cas-là, la parole, c'est quand même une parole qui guérit, qui guarisce, qui a un pouvoir aussi de ramener à la lumière, donc à l'aube, parce qu'il y a pas mal de contes aussi oui. Qui font référence à cet aspect de renaissance. Oui. Est-ce oui, que oui. Tu voudrais en dire plus sur cet élément? Ben, je pense que tu touches à quelque chose d'essentiel. C'est vrai que, bon, dans ce livre, il y a des noirceurs, il y a des choses extrêmement tristes, violentes, mais à travers tout ça, enfin, je crois que mes personnages et moi, on traverse tout ça, et qu'on touche quand même à une certaine lumière, ouais, à un certain espoir, et à l'amour de la vie à travers tout. Je pense que oui. Qu'on touche aussi à des valeurs. À des valeurs. Par exemple, je pense à Pique-Nique, et c'est les quatre ouvriers de la propriété là, qui fêtent un compliment qu'ils ont reçu de leur chef. J'ai beaucoup de tendresse pour eux. Je les vois très très bien là. Et... Bon, ils fêtent ça avec une belle naïveté, une belle fraîcheur, et ils sont dans la lumière parce que leur chef leur a dit qu'il était content d'eux. Il suffit parfois de si peu de choses pour procurer une joie ou même ouais. Du bonheur à quelqu'un. Et voilà, sur la joie et sur le bonheur, j'ai une question. Dans le dernier, je crois que c'est le dernier livre de Salman Rushdie, c'est Shalimar de Clown. Là, il y a un personnage qui dit qu'il n'aime pas le soleil, parce que dans le soleil, dans la grande lumière, tout est sur la surface. Bien les blancs et les noirs. Uh-huh. Et donc, elle aimait bien le jour où il n'y avait pas le soleil, parce qu'elle pouvait voir les détails. Ouais. Et donc, c'est ça que je demande. Nous, quand on vient d'Italie, donc on a beaucoup plus de soleil, donc on est plus superficiel, mais le côté superficiel. Comment on peut voir la beauté? Comment on peut apprendre à apprécier la beauté des détails, là où il y a moins de lumière, où les détails sont visibles. Et donc, ton concept de beauté dans les détails. Tu as déjà dit quelque chose sur des petits chemins, des petites choses par ici, par là. Mais comment on peut découvrir ces petits... Moi, je pense que c'est une question de regard. C'est notre regard qui s'affine peu à peu. Bon, j'ai par exemple quand même fait deux séjours assez longs à Rome, hein, pour parler de votre chère Italie, hein. Bon, au mois d'août. Alors là, c'est un festival de lumière, hein. Mm-hmm. Bon, eh bien, j'étais attentive à plein de détails. Ce soleil extraordinaire ne m'a pas gênée dans la découverte de toutes petites choses, de rien du tout. C'est une question de regard. Ce n'est que ça. Ce n'est pas une question de climat, etc. pour moi. C'est le regard. Un regard ouvert. Ouvert, ouvert, oui, je dirais sans préjugés. Sans préjugés, et voilà, on décide d'aller dans un quartier moche, je me dis pas, tout sera moche, donc c'est presque pas la peine d'y aller. Mais non, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais découvrir? Et voilà, c'est parfois une petite fleur toute mignonne comme ça, au milieu d'un tas d'ordures. Ça me parle beaucoup. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est frappant aussi d'aller. Ouais, absolument. Et une question sur les titres aussi. Ah oui. Peut-être c'est mon français, bon, je ne connais pas trop bien le français, mais pourquoi miteux et pas mythique? Mythique et magnifique. Non, c'est miteux. Parce que je voulais que le titre renvoie vraiment à cette ambivalence du livre. Donc, une sorte de festival de beauté, mais aussi de réalisme et parfois d'une certaine laideur. Et donc, magnifique, ben, ça vous connaissez bien le terme, oui, hein, je pense. C'est pas très difficile, pas très différent de l'italien. Et miteux. Miteux, c'est par définition, c'est quelque chose qui est assez moche ou un peu raté comme ça. Et j'aime bien ce mot-là. Il a beaucoup de connotations. Et donc, je rassemble les deux grandes facettes de mon livre par ces mots, miteux et magnifique. En plus, au point de vue stylistique, on peut parler d'un procédé qui s'appelle l'oxymore. C'est-à-dire que c'est deux mots contraires, opposés, que je relie par et. Donc j'en fais, je les mets sur le même pied, je ne les oppose pas, ils sont sur le même pied. C'est un regard à 360 degrés. Voilà, vous avez bien compris. Oui, le regard. Il y a l'un et l'autre. Voilà. Oui, non, c'est ça. C'est oui, clair. Donc les écrivains ont des yeux partout, comme les mouches. Mais les mouches. Les écrivains sont des mouches. Bon. Oui, non, je pense beaucoup mieux des mouches, mais bon. C'est intéressant, une mouche, quand même. Oui, bien sûr. Moi, j'observe beaucoup les mouches. Hein. Et donc, étant donné que moi, je viens de Venise, donc il y a beaucoup de canaux à Venise. Et il y a aussi des mouches. Pas des bateaux-mouches, mais des mouches. Pas beaucoup, hein. Bateaux-mouches, pas. Non, des mouches qui sont grandes comme des bateaux. Ah, voilà, voilà. C'est plutôt ça, oui, oui. C'est absolument vrai. Mais il y a des canaux qui sont enterrés. Donc je me demande, on a parlé du canal de Bruxelles. Ouais. Est-ce qu'il y a le canal ou les canaux de Bruxelles? Est-ce qu'il existe encore les canaux de Bruxelles derrière quelque chose? On voit que derrière et en bas, il y a de l'eau qui coule. Oui, mais je crois qu'ici, on peut parler du canal de Bruxelles. Hein. C'est... Je crois qu'il n'y a pas de sous-canal ou sous-canaux, je ne pense pas. Enfin, il y a une petite rivière, on n'a rien à voir, mais la Seine, et qu'on s'est amusé à recouvrir et à cacher. Voilà, donc on commence à le regretter maintenant, c'est dommage, parce que c'était une toute petite beauté, minuscule beauté de Bruxelles, alors on l'a enterrée. Ça, c'est parfois l'esprit bruxellois. Donc, c'est belge. Pas que Bruxelles est bien, alors. Cela dit, vous évoquez Venise. Oh, pour moi, c'est un lieu, en dehors de la réalité, tellement c'est fabuleux. Ça, franchement, c'est... Quand j'y suis, je me dis non, je suis ailleurs. Ça, c'est mythique. Venise est mythique. Ah oui. Ah oui, là... Ça. C'est un lieu, non lieu non plus, hein, donc... Oui, c'est tout à fait d'accord. C'est un lieu, non lieu. Ouais. Parce qu'il change beaucoup. À 5h le matin, c'est une chose. À 6h, ça change. À 7h, commence à devenir quelque chose de différent. À 8h, c'est complètement... Il a complètement changé. Venise, c'est vraiment un lieu qui change. Pendant la journée et la nuit, il change complètement. Ce sont des villes qui s'approchent. Ouais, j'aime particulièrement Venise la nuit. J'ai des souvenirs de balades comme ça, dans une sorte de silence extraordinaire. J'étais en pleine poésie. C'était des souvenirs très, très forts. Ah oui, vraiment. Donc, j'ai quand même quelques beaux souvenirs italiens, moi. Que belle. Ah oui. Ben, pour nous aussi, non, quand même. Ben, moi, j'aime beaucoup le fait que le regard est le même, soit à Venise, soit à Rome, soit à Bruxelles. Ça, c'est une très belle chose. Ben, le regard sur les canals, en tout cas, je vous conseille de les lire parce que ça vaut la peine. Et peut-être vous allez certainement découvrir un quartier dans lequel, peut-être, je parle surtout aux expats, non, jamais mis les pieds, peut-être, je ne sais pas, peut-être je peux me tromper. Evelyne, le temps, malheureusement, la radio court très vite, mais est-ce qu'il y a encore un mot que tu voudrais adresser à nos amis auditeurs? Peut-être leur dire merci, enfin un peu indirectement, mais j'évoquais tout à l'heure donc 2 mois que j'ai passé à Rome, à l'Academia Belgica. J'étais payée pour écrire, donc j'ai écrit. J'ai quand même savouré cette atmosphère italienne et ça me portait vraiment. Donc moi je dis merci aux Italiens qui m'ont inspiré. On peut donc espérer de te lire prochainement encore une fois. En italien? Je ne sais pas. Ça, je ne le dis pas. Moi, j'aimerais bien. Aller lire en italien, on peut lancer le défi si tu veux, mais bon. Non, je ne demande pas autant. Je ne demande pas autant. Non, mais bon, mon prochain livre sort en français, donc excusez-moi, là, je suis désolée. Mais il sort à Montréal. Donc là, il y a une petite connotation quand même intéressante. Hein. C'est pas l'Italie, mais enfin, quand même. Le Québec peut avoir un petit peu de charme. On peut déjà savoir le titre? C'est le Montréal de Québec, le Montréal de Sicile. Non, Montréal, bravo, Georges. Montréal et à Sicile. C'est au Canada, d'accord. On peut déjà peut-être dévoiler le titre? Si possible, je ne sais pas. Ça, c'est en primeur, alors. Ben est-ce oui. que mon éditrice serait d'accord? Je ne sais pas. Je vous le livre, quand même. Le titre, on ne demande pas que ça. C'est « Pas de bagages ». Mais une barque. Et là, je vois que les voyages, un autre voyage va commencer, non, Georges? Oui, c'est toujours un voyage. Mais on ne quitte pas les cadeaux, hein? Ouais. Pas du tout, non, hein? C'est un grand cadeau. Les voyages, vraiment, ça semble que ça fait 7 ans, quoi, M. Bruxellando, et tu vois, les voyages reviennent. Oui. Ça veut dire que, mais je ne voudrais pas tirer des conclusions, mais. Vraiment, la vie est un voyage. Je suis tout à fait d'accord, oui. Et Bruxellando, tous les mardis, nous amène à travers différents voyages. Oui. Donc, moi, je les remercie. Evelyne, Daniel et Daniel, mais je dois aussi nous annoncer quelque chose avant de quitter Evelyne. Oui, si vous voulez en savoir plus par rapport à Evelyne Wilvert, elle a aussi un site internet, www.evelynewilvert.com. Nous l'avons tweeté sur notre compte Twitter, donc tous nos écouteurs peuvent trouver toutes les infos chez nous. Bruxellando, remercie soit Evelyne pour sa présence ce soir, et Gérard, qui était aussi ici silencieux, donc, qui est un formidable éditeur. Tout à fait, ça. Moi, je l'ai dit déjà depuis le début. C'est le seul éditeur sur lequel, moi, j'ose aussi parler en français à la radio. Donc, vous avez donné l'honneur, Gérard, de l'appeler le silence attentif. Pourquoi pas, oui. Bienvenue dans la famille de Bruxellando. Donc. Donc, nous remercions Evelyne. Donc, je vous rappelle, Miteux et Magnifique. Donc, maison d'édition Méo. Et dans notre blog, je pense que Dany M va vous annoncer tous les éléments nécessaires pour acheter aussi les livres d'Evelyne. Evelyne, un grand merci ou merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et à toute l'équipe. Ça me fait très, très plaisir. Et nous espérons, évidemment, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. E voilà, eccoci tornati in studio, con la nostra lingua italiana. Eh sì. Però è stata una bellissima intervista in francese. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Evelyne Wilvert. Beh, insomma, come al solito, no, noi lo diciamo spesso, ma non spessissimo, che non leggendo uno si perde qualcosa. Mi sa che questo è il caso, soprattutto per chi vuole un po' assaporare il gusto di uno scrittore che vede le cose che forse noi, che siamo un po' stranieri, che siamo degli expat, sfuggono un po', perché è un po' difficile entrare in questa cultura. La cultura belga è una cultura estremamente accogliente, credo che sia, vabbè, fra gli stati che ho conosciuto la più accogliente, quella dove uno arriva e si sente a casa. Non sa com'è, ma arriva e si sente a casa. Non importa dove sei, non importa se sei italiano, spagnolo, del nord, del sud, ti senti a casa. Questa è la bellezza, la stranezza, la particolare, la rarità di Bruxelles. E quindi credo che veramente i padri fondatori dell'Europa abbia avuto, non so, poi si raccontano le storie che ci sono stati dei cambiamenti, dei ricatti. In realtà credo che quella di Bruxelles sia stata veramente una scelta fortunata. Felice. Una scelta felice e una scelta ispirata. Questa città è così. E vorrei allora citare su quello che dice George ancora un verso di Evelyn che è qui con noi, che credo innanzitutto il suo stile di scrittura è veramente accogliente, quindi come diceva George c'è veramente questo momento in cui non c'è differenza tra nazionalità e culture, ma c'è la parola, come dicevamo, la parola che diviene la protagonista. E sì, je vais dire quelque chose sur le voyage, parce qu'on avait parlé aussi du voyage, donc à me perdre. Je pivote soudain vers la droite et je reprends mon avancée, droit devant, vers l'inconnu, vers moi-même. Et ça, c'est encore Evelyn. Donc, je pense que peut réellement, comment dire, réassumer ce que nous avons dit dans l'émission de ce soir. Ma le emozioni di Bruxelles questa sera non finiscono. Non finiscono. Ve l'avevo detto che sarebbe stata una puntata eccezionale, perché parliamo di una cosa molto cara soprattutto a qualcuno qui in studio. E mo vediamo. Parliamo un'altra volta di un'antologia, quindi on parle aussi d'un recueil de contes, mais cette fois-ci la protagoniste è la bicyclette ou le vélo, comme on dit mieux en français. E ritorna Isabella Borghese, che questa volta ritorna come autrice di un racconto breve, ma anche curatrice della raccolta stessa, che vede protagonisti tra gli altri Stefano Benni, Fulvio Hervas e Andrea Satta, ma anche un progetto antologico che coinvolge autori meno conosciuti. E pedalare è il verbo che passiamo dal canale, no? Passiamo dai batù ai velò, no? Passiamo alle biciclette. Quindi pedalare non è solo uno sforzo e muscoli tesi, ma anche la gioia di condividere momenti spesso indimenticabili. E allora abbiamo Valerio, che al rumore delle ruote che girano dice di sentire la Ida, un uomo che lascia tutto e tutti per la sua Graziella e finisce su chi l'ha vista. La vita di due futuri genitori, che non è come andare in tandem ma salire su due biciclette, così che insomma si possa apprezzare lo sforzo di pedalare fianco a fianco. Poi c'è chi dalla Germania della Seconda Guerra Mondiale pedala con strenua forza verso la libertà. Dario, che appena si mette in sella, ripensa alle sue corse per l'Aquila ancora intatta, e tutte le volte una lacrima pesante come una maceria gli solca il viso. Storie che tra corse forsennate, cadute rovinose e morbide pedalate non raccontano solo i momenti in cui si sale in bicicletta, ma pezzi di vita in cui l'amabile due ruote è testimone preziosa. Isabella, benvenuta a Radio Alma, Bruxellando. Ciao, ben trovati. Siamo veramente felici di averti nuovamente nostra ospite. Ah, grazie, anche a me fa molto piacere. Allora, questa volta però effettivamente devo dire che ci vizi, perché passiamo da un argomento all'altro. Insomma, ci eravamo lasciati un anno fa del tuo primo romanzo, Dalla sua parte, che percorre la storia di una donna che, oltre a fare i conti con se stessa, si ritrova a gestire i problemi e i sentimenti di chi li circonda. Questa sera invece ci ritroviamo a parlare di uno degli oggetti più amati e usati, userei dire, nel nord Europa, cioè la bicicletta. Quindi quanti colori e quante sfumature hanno la tua scrittura? Ma guarda, in realtà credo che ci sia molta un filo conduttore nelle cose che scrivo, anche se forse all'apparenza possono sembrare molto differenti. E questo progetto in particolare, secondo me, è un po' il seguito di un altro progetto che avevo curato l'altro anno, di cui forse non avevamo parlato insieme con voi, che è stato un'antologia sul diritto alla casa, e dove praticamente io avevo raccolto testimonianze e fondamentalmente erano e sono ancora tutti i racconti che narrano il problema del diritto alla casa attraverso le voci dei protagonisti, quindi una tematica sociale in cui è molto importante l'aspetto e la vita delle persone, no? Come vivono. In realtà questo per me è un progetto che segue questo qua di cui ti ho parlato adesso, perché la bicicletta, come ho scritto anche nell'introduzione, ormai sta entrando parecchio nei nostri territori, e quindi ci sono dei veri movimenti che si sono strutturati, che danno vita a festival, anche a realtà sociali, insomma dei gruppi che alla mattina si organizzano per portare i bambini a scuola. In alcuni municipi questa cosa a Roma è già la stanno facendo, o piuttosto un gruppo italiano, i Tedebois, da, mi sembra da un annetto stanno organizzando il palco a pedali e quindi loro fanno musica attraverso più di 100 persone che pedalando permettono di far suonare gli strumenti. E quindi per me questi sono dei progetti che in realtà possono sembrare scollegati, ma a livello di scrittura per me sono molto simili, perché comunque raccontano la vita delle persone che vivono nei nostri territori. In realtà è vero, perché nel tuo racconto scrivi tra l'altro che la bici è una questione di felicità perché è una questione, sì, di libertà. È vero. Dunque io ho raccontato la storia di un fratello e di una sorella che si divertono ad andare in bicicletta insieme in un paesino che peraltro sta vicino a Roma, si chiama Nemi, e che appunto io, il titolo del racconto è Rosso, il paese delle fragole. E nel racconto io appunto ho cercato di unire sia questo mezzo che unisce questi due fratelli che appunto insieme trascorrono molto tempo divertendosi andando in bicicletta, poi nel frattempo appunto la bambina diventa donna, e io ho fatto tutto un gioco che mi è stato permesso attraverso appunto la storia di questo paesino Nemi, che è chiamato appunto il paese delle fragole, perché si fanno tutti gli anni, fanno la festa delle fragoline di bosco, e quindi ci ho fatto tutto un gioco attraverso questa rappresentazione della frutta, quel colore rosso sono i capelli di questa bambina di cui io racconto, e poi rosso perché appunto all'interno di questo racconto diventa donna. Mi sembra essere veramente, io vi suggerisco di leggerlo perché è un racconto breve ma che veramente vale la pena di comprare, insomma, perché Riccioli Rossi tra l'altro è la protagonista. Riccioli Rossi, sì, veramente ti avvolge, coinvolge, emoziona e coccola soprattutto dalla prima all'ultima parola. Ma non sei da sola in questa avventura, in questo tuo viaggio. Hai raccolto più autori noti e meno noti. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare tra gli autori Fabio Sebastiani, che è stato nostro ospite a Bruxellando 2 anni fa. Quindi tra una pedalata e un'altra. Dimmi, In particolare autore di un racconto in cui la bicicletta gli è servito appunto per raccontare, per fare un po' una metafora tra i rapporti umani e la bicicletta, un po' come se ogni pezzo di bicicletta rappresentasse una parte della persona all'interno di un gruppo di persone, infatti l'ha inventato proprio la bicicletta umana lui. E la storia in generale di questa raccolta è nata, innanzitutto ho avuto la fortuna tramite insomma l'ufficio stampa di riuscire a contattare Stefano Benni, che ci ha regalato un bellissimo racconto che apre l'antologia e che si intitola Il Grande Valerio, e poi appunto sono riuscita a conoscere Andrea Satta, che è il cantante dei Tete Bue, che io seguivo a livello insomma è un artista che io conoscevo non personalmente, ma lo seguivo da tanti anni, e che ha scritto anche lui un libro sulle biciclette con Prediciclo, e sono riuscita appunto ad avere una collaborazione con lui e con Fulvio Erbas, che l'altro anno io ho seguito tantissimo nel suo tour per il libro Se ti sbraccio non aver paura, e insieme a loro peraltro ci sono altri 20 autori che sono alcuni che io stimo molto. Appunto tra questi c'è Angela Scarparo, c'è sta Davide Malesi e Fabio Sebastiani, che sono tutti autori che avevo già coinvolto nell'antologia del sul diritto alla casa, e che ho avuto il piacere quindi di riavere e di riproporre questo progetto, e poi insieme a loro ce ne sono altri che comunque hanno partecipato volentieri, ognuno appunto, uno in particolare mi viene in mente adesso il racconto di Alessandro Borgogno, che ha parlato della bicicletta all'interno di un contesto molto particolare che è l'Aquila dopo il terremoto, ha raccontato un racconto molto bello, è uno di quelli che ho apprezzato di più per esempio anche quello. Ed è ripercorre esattamente quello che ti raccontavo prima, quando ti dicevo che appunto sono progetti a livello sociale che reputo importanti perché appunto raccontano i nostri territori, e questo è un esempio proprio palese. Eh beh, certo. a 6 anni non gliel'avevano ancora comprata. Sofia all'epoca era brava sui pattini. Eppure si sentiva pronta, prontissima per imparare a pedalare questo mezzo a 2 ruote che tanto la affascinava. Così un giorno, al parco, quando un bambino ha appoggiato in terra la sua bicicletta arancione, Sofia è corsa a prenderla. Si è levata i pattini e ha cominciato a pedalare, a correre, imparando a stare in equilibrio su 2 ruote. Ha imparato in fretta e con la paura addosso che da un momento all'altro quell'arancio bici le venisse tolto da sotto il sedere. Il bambino piangeva, ma Sofia si avvicinava a lui. «Bimbo, tu sai andare sui pattini?» «No». «Allora prendili, infila i miei, ti aiuto io. Tu imparerai ad andare sui pattini con i miei, io ad andare in bicicletta con la tua. Quando il sole andrà via e dovremo tornare a casa, ci riscambieremo di nuovo». È così che Sofia ha conquistato il suo equilibrio in bicicletta. La bicicletta. Che grande conquista! E questo è un estratto per l'appunto del racconto di Isabella. Isabella, con la prima ospite di questa sera, Evelyn Wilvert, abbiamo parlato del potere della parola che nel caso dei suoi racconti cura, guarisce e riporta alla felicità. Tu hai scritto molto anche su, diciamo, temi abbastanza scottanti o temi di cui pochi amano occuparsi, quindi che cosa ne pensi? Ma io forse ne abbiamo anche già parlato un'altra volta sull'importanza della parola. Io in particolare l'ho notato anche con questa raccolta di racconti, perché poi appunto io ho curato il progetto, ma il progetto esiste grazie ai contributi di tutti gli autori, e proprio rileggendolo qualche giorno fa in occasione di una presentazione che stavamo organizzando, ho proprio pensato di quanto in realtà l'importanza della parola sta proprio nel fatto che ci accompagna, quindi ci accompagna in diversi momenti della giornata, ci accompagna negli stati d'animo e ci accompagna anche tra persone, quindi progetti di questo tipo sono anche permettono una condivisione di parole che in qualche modo poi diventa anche una condivisione umana. Per quanto riguarda il potere della cura e della guarigione, invece credo che non è tanto sulla scrittura, sul fatto di scrivere personalmente, può essere che sia anche terapeutico, però non credo che la scrittura personale sia uguale alla scrittura che poi si consegna invece al lettore, sono 2 lavori completamente differenti. Isabella, ahimè, il tempo in radio è tiranno perché corre proprio veloce, ma vorresti ancora aggiungere qualcosa da condividere con i nostri amici all'ascolto? No, io, guarda, l'unica cosa che vorrei aggiungere è che a fine settembre uscirà il romanzo nuovo e quindi questa volta riuscirò a venire, perché ci abbiamo avuto un contrattempo lo scorso anno per dare la sua parte e quest'anno recupereremo. Benissimo, allora, visto che dobbiamo chiudere, ormai la telefonata e anche la trasmissione agli sgoccioli, ti ringrazio infinitamente per questa bellissima intervista. Grazie a voi. E anche del fatto che la parola unita alla bicicletta, forse la parola da sola non ce la fa guarire, ma insieme alla bicicletta, dopo tante pedalate, qualche effetto positivo ce l'ha. Quindi vi ricordiamo Una bella bici che va, Giulio Perrone editore, a cura di Isabella Borghese. Isabella, buona serata e grazie ancora, e soprattutto a presto. Ciao. Ciao. Na na na, Bruli Brangolo. Bruli Brangolo. Abbiamo cambiato nome. È Librangolo brulicante. È pieno di energia. È Librangolo. Quindi adesso devo essere vitaminica. È Librangolo di Bruxelles, Librangolo. Mitico. Bruxelles andando, brulicante. Fantastico. Stasera è piena di idee. Ma ultimamente sto leggendo dei libri che sono più difficili da raccontare, non so perché. Comunque, stasera vi ho portato un libro di Yuli Tse, che è un'autrice che scrive molto bene, cioè dal punto di vista dello stile davvero mi sono trovata varie volte a rileggere dei paragrafi, perché proprio scrive bello. E non è che mi succede questo molto spesso, ci sono alcuni autori con cui mi succede, ma è piuttosto l'eccezione. E quindi da questo punto di vista mi piace tantissimo. E generalmente un altro talento che ha questa scrittrice è di costruire una tensione con cui ti tiene continuamente nella mano, senza, cioè lei non è una scrittrice gialli, anzi è una scrittrice piuttosto letteraria, ma ciononostante riesce ad avere questa tensione che sta muovendo nelle sue storie, con cui riesce a tenere l'attenzione proprio legata agli eventi. Ciò che è strano in questo libro è proprio quello che succede. E quello che succede fondamentalmente è come se il libro fosse una dimostrazione della teoria dei giochi. E già qua stiamo entrando in un territorio un po' complicato. È interessante. È interessante, assolutamente interessante, però è una trasposizione nella vita reale di alcune teorie che già è brava la scrittrice di farti credere che questo possa succedere. Poi tutto il resto, cioè a volte praticamente uno si perde un po', cioè cercherò di darvi proprio un assaggio di che cosa si tratta. Si tratta di quel fatto che si dice nella teoria dei giochi, che per poter, diciamo, vivere un ruolo al meglio, il personaggio deve essere costretto su una pista predefinita, come se fosse un pezzo su una scacchiera. E quello che succede nel libro è che all'iniziativa di uno scolaro, si tratta di ragazzi di 14 fino a 18 anni, di uno studente di uno scuola, studente di scuola che è praticamente innamorato della teoria dei giochi, trova una adepta nella persona della 14enne Ada, che è praticamente anche lei è molto prematura, molto intelligente, addirittura un po' geniale, e quindi praticamente lui crea questa situazione nella scuola. Il triangolo è fatto da lui, da Ada e da un professore di origine polacca, che è il loro professore di tedesco e ginnastica. Allora, il gioco fondamentalmente ha un po' di sottotoni sessuali, non sottotoni, sovratoni sessuali, se posso dirlo così, non è nascosto per niente. Si tratta del praticamente costringere il professore in una situazione compromettente per poi ricattarlo, ma ricattarlo non per avere un vantaggio, ma ricattarlo per proprio forzarlo su questo cammino stretto. E questo cammino stretto è che lui sì ha una moglie, che ama anche, ma in questa situazione praticamente deve fare, cioè non ha scelta. Cioè lui deve sottoporsi a questo gioco dei ragazzi e con questo rischiare di perdere completamente la sua vita vecchia, ma anche di guadagnare la capacità di crearne una completamente nuova. E allora, cioè, la cosa diventa molto filosofica. Cioè, la scrittrice mette dentro la storia gli spunti, diciamo, che sono la base anche psicologica e filosofica di tutto il gioco, in modo... A volte non lo noti neanche che te lo mette dentro, a volte invece è troppo palese addirittura, cioè la sapientella Ada, che generalmente fa i discorsi sul nuovo nichilismo e non so che cosa, che comunque a volte io l'ho trovati un po' eccessive, diciamo, oltre le righe effettivamente. E poi un altro difetto di questo libro, nonostante tutti i suoi pregi, è di essere troppo lungo, cioè anche di avere uno scioglimento un po' troppo lungo, proprio perché ci sono tutte queste complessità nel libro, c'è anche questo bisogno di spiegare, quindi alla fine si fa un processo perché tutto scoppia, alla fine c'è un processo e Ada è quella che alla giudice spiega tutto ciò nella sua logica vera di che cosa è successo. E qual è il ruolo dell'amore anche in tutta questa storia, e che cosa può veramente portare come guadagno questa situazione strana. E quindi uno ha un po' un'impressione che è troppo spiegata la cosa da un lato e troppo complessa dall'altro, quindi è una situazione che è difficile da tenere in equilibrio, e io non sono certa ancora, perché dopo averla letta ancora non l'ho digerita, se l'autrice ci sia riuscita veramente o no. Quindi è un libro sicuramente interessante, non è per il gusto di tutti, comunque se...